Sala in tavola di Nicoletta Carbone. Dai, presto che è tardi, sono le 12 passate, c'è la bufala in tavola. Buona domenica, passate a casa ad aspettare. Anche il telefono non squilla più, il tuo ragazzo ha preso il volo. E noi la domenica mangiamo insieme, perché intorno alla tavola della bufala in tavola, anche se siamo lontani, ci sentiamo vicini. E in questa fase così delicata e importante della nostra vita, amici miei, abbiamo bisogno di sentirci uniti, di condividere progetti, energie, sforze, speranze. Ci siete tutti? Allora, su, dai, pronti, si parte. E da dove ripartire se non dalla tavola? Beh, in linea con noi il professor Luca Piretta. Buongiorno, professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Gastroenterologo e docente di allergie e intolleranze alimentari al Campus Biomedico di Roma e, sentite un po', autore di Mangiare Italiano. Professore, la lascio solo un attimo, giusto qualche settimana, ed lei mi esce subito con un libro. Volevo darle uno spunto per parlare questa puntata. Vede quanto mi vuole bene. Un libro che racconta tutti i segreti della dieta mediterranea, che noi sappiamo bene, la strategia alimentare più corretta, salutare e gustosa del mondo, e tra l'altro anche la più premiata. Ma non c'è dubbio, in realtà questo libro quello che punta è dare delle giustificazioni scientifiche moderne a un modello di alimentazione antico come quello mediterraneo, perché spesso andiamo molto per approssimazione, pensiamo che la dieta mediterranea sia mangiare la pasta e un po' di verdura, ma è molto più complesso, e oggi abbiamo delle evidenze scientifiche anche molto interessanti e affascinanti su perché la dieta mediterranea ci fa bene. Allora, questo mi piace, perché in questo modo lei, in modo come sempre garbato e gentile, ci manda un messaggio. Beh, parlo di dieta mediterranea, ma voi che sapete, pensate di conoscere la dieta mediterranea, in realtà non sapete che? E questo è un po' l'appeal del libro. Sì, esatto, non sapete, adesso non è che ho la presunzione di essere io a sapere, però posso fare da veicolo di informazione alle persone che non sanno quali sono i retroscena scientifici che ci sono dietro alcuni comportamenti moderni. Per esempio, al di là degli alimenti che sappiamo tutti quali sono, frutta e verdura in particolare, legumi, noci, mandorle, pesce, prodotti lattiero-caseari, e via via secondo la piramide, perché quello che la dieta mediterranea ci insegna sono le proporzioni giuste, c'è tutto un mondo che riguarda la preparazione dei cibi, la cottura, la convivialità, la frugalità, e questo è detta anche poi i tempi nei quali mangiare, la crononutrizione, l'azione degli alimenti sui nostri geni che ci fanno poi rispondere in un modo positivo rispetto ad altri. Quindi c'è una grossa complessità scientifica che alla fine poi traduce alcuni detti popolari, mi viene in mente colazione da re, pranzo da principe e cena da povero, no? Che veniva detto dai nostri nonni. Bene, un po' nel libro c'è anche la risposta e la spiegazione di questo, perché è giusto mangiare in certi orari, capire quanto la psiche gioca nel poter seguire un regime alimentare, perché è facile dire fai la dieta in questo modo, ma la miglior dieta non è quella che viene data in astratto, è la real diet, cioè riuscire a far sì che il paziente faccia quello che noi gli diciamo, quella è la dieta migliore, quella che il paziente riesce a fare. Allora, professore, passiamo dalla teoria alla pratica, così noi ci portiamo a casa qualche informazione che è utile anche per scegliere, per portare a tavola nei modi e nei tempi corretti gli alimenti giusti. Quindi lei ci ha parlato delle evidenze scientifiche moderne per un modello di vita antico, come a dire che la nutrigenomica, la cronobiologia, anche tutti gli studi che ci sono stati fatti sui batteri e sul microbiota sono proprio, no, tutti racchiusi in questo modello alimentare. Esattamente, inconsapevolmente si faceva, non si sapeva perché, poi si è un po' abbandonato, ci siamo avvicinati alle diete americane, le cosiddette Western Diets, perdendo molto del nostro stato di salute. Quindi partiamo sempre dalla prima colazione, se vogliamo, tu mi chiedevi un esempio pratico, partiamo dalla prima colazione, cereali, latte e frutta. È semplice. E fare in modo che la prima colazione sia, se non il pasto principale, insieme al pranzo dobbiamo far fuori il 70-80% del totale delle calorie giornaliere, lasciando per la cena, che deve essere fatta a un orario accettabile, possibilmente non oltre le 20, una piccola percentuale del totale delle calorie giornaliere. La dieta mediterranea, lei ha anticipato, non è solo fatta di alimenti, ma anche di modalità di assunzione, di tempi, di cottura, di psiche e aggiunto anche la frugalità. Beh, questa è una parola chiave, perché se c'è una cosa che abbiamo capito in tutto il mondo è che, soprattutto nel mondo occidentale, si mangia di troppo e di più. Quindi dobbiamo cercare in senso assoluto di ridurre le porzioni di ciò che mangiamo. Questo prima ancora di andare a vedere che cosa mangiamo, ridurre le quantità, perché comunque si mangia troppo. Questa è una sproporzione anche di sostenibilità che va poi analizzata in termini ecologistici. Quindi, seguendo il principio della frugalità, la dieta mediterranea, che non nasce, professore, come dieta dimagrante, ma proprio come modello di salute, permette alle persone che sono leggermente più morbide di tornare in linea. Ma è la certo. Butto lì. Ma è così, è così. Invece di cercare diete strampalate, basta adattare secondo i fabbisogni la dieta mediterranea. In questo modo otteniamo due risultati: si dimagrisce, ma si guadagna in prospettiva di salute, che è la cosa più importante. Il perdere peso, questo lo diciamo sempre, Nicoletta, perdere peso e dimagrire sono due concetti diversi. L'importante è dimagrire, non perdere peso a qualunque costo. Con la dieta mediterranea fatta in termini calorici corretti, si perde peso rimanendo in salute e prevenendo le malattie, perché questo ci regala come tesoro di salute la dieta mediterranea, la prevenzione delle malattie, se riusciamo a farlo in modo corretto. Professor Piretta, tra l'altro noi abbiamo avuto gli anni e tempi in cui c'erano i superalimenti, alimenti miracolosi, portentosi. In realtà la dieta mediterranea è proprio un connubio, posso usare questi, di superalimenti, cioè alimenti che la scienza ha dimostrato apportano davvero salute al nostro organismo. Quelli sono davvero super: i legumi, i cereali integrali, il pesce. Certo, nel libro io ho descritto per i singoli alimenti quali sono i principi nutritivi utili e a cosa servono, però è anche chiaramente espresso che il singolo alimento da solo non serve a niente, quello che conta è l'insieme, è come se una squadra di calcio avesse un campione assoluto e nessuno gli passa la palla. Qual è non la sua squadra di calcio, prof? Lo posso dire, la Juventus. La Juventus, ma se io sono del Toro perché... e sono qua che parlo con lei alla tavola della bufala in tavola, sì? Facciamo un derby a tavola. Fantastico, questa. Professore, grazie per essere stato con noi. Mangiare italiano, la dieta mediterranea è una dieta che aggiunge gusto, sapore, tradizione e salute alle nostre giornate e alla nostra vita. Professore, a prestissimo, buona giornata. Grazie di cuore, grazie. Grazie, andiamo a fare una piccola pausa, poi ritorniamo tutti insieme appassionatamente con tutti i tifosi, ciascuno della propria squadra, ma soprattutto della bufala in tavola. La bufala in tavola. Well, the cuckoo, Gigi now, I love cooking in the kitchen with the you mama. Well, the cuckoo, Gigi now, I love cooking in the kitchen with the you mama. Veloci veloci, siamo tornati insieme alla bufala in tavola, stiamo preparando il nostro menù domenicale. A proposito di menù, tutti noi sappiamo che ci sono alimenti che non possono mancare sulla nostra tavola, non solo perché fanno parte della nostra tradizione, che è poi la dieta mediterranea di cui abbiamo appena parlato, ma anche e soprattutto perché ci fanno stare bene, in quanto ci forniscono tutto quello che è necessario per mettere il nostro organismo non solo nella condizione di funzionare, ma di farlo al meglio. Bene, ma come si dice, tra il dire e il fare, e può capitare che alcuni alimenti vengano eliminati dalla tavola o dalla nostra dieta perché poco graditi o ritenuti responsabili di effetti collaterali fastidiosi, digestione difficile, gonfiore o magari per semplice pigrizia, per una sorta di resistenza a metterli in pentola con soddisfazione. Bene, individuato il problema, trovate la soluzione, come a dire, fatta la diagnosi si trova, no? Quello che si può fare per mettere tutto a posto. Allora ho chiesto al dottor Gabriele Piuri, che è un medico esperto in nutrizione, che è già in linea con noi. Buongiorno dottore. Buongiorno a tutti, buona domenica. Di fare con noi questa sorta di gioco della domenica che chiamerei le allegre e convenienti sostituzioni. Dottor Piuri, lei è pronto? Si gioca? Prontissimo, sì, giochiamo. Allora, andiamo. Prima di tutto però, secondo me bisogna dire una cosa. Ogni lasciata è persa. Questo vale ancora di più in ambito nutrizionale. La parte legata alla varietà è una delle caratteristiche fondamentali per fare in modo che una dieta sia veramente, veramente sana. Quindi bisogna mangiare un po' di tutto. Sì, l'obiettivo sarebbe quello di riuscire a mangiare un po' di tutto. E sto al gioco e cercheremo di ragionare insieme su delle possibili alternative, anche se poi mi permetterò, per ognuno degli alimenti, delle grandi categorie di alimenti che andremo a citare oggi, di cercare di far capire qual è la loro importanza nutrizionale, in modo da convincere, da provare a convincere tutti a ritentare, riassaggiarli, di riutilizzarli nella loro alimentazione. Certo, allora tra gli alimenti che incontrano più resistenze ci sono senza dubbio i legumi. Sì, è vero. Vero. Legumi, anche se siamo mediterranei, con gli anni abbiamo imparato a utilizzarli sempre meno, sono sempre meno presenti nella nostra alimentazione. E poi probabilmente l'altro grande assente, anche se a volte non si direbbe, ma negli italiani è in cima alla classifica degli alimenti evitati, il pesce, purtroppo. Per mille e una ragione. Allora, il dottor Piuri, un po' tortocollo, l'abbiamo capito, sta al gioco e ci aiuterà a fare queste allegre sostituzioni. È un piccolo gioco, noi però abbiamo capito che dovremo provare a mangiare un po' di tutto in modo equilibrato. Ma per aggiungere ancora un tocco di gusto e anche di capacità, perché tante volte gli alimenti non li portiamo a tavola perché non sappiamo cucinarli, non ci danno soddisfazione, li troviamo troppo complicati, ho chiesto il rinforzino da un grande caro amico, Andrea Ribaldone, chef dell'Osteria Arborina La Morra di Cuneo. Andrea, ciao. Ciao a tutti. Ciao amico stellato. Amico stellato, anche stavolta ci aiuterai. Allora, ho creato una coppia. Dottor Piuri, partiamo dai legumi. Molti non li digeriscono, non li mangiano con frequenza per non fare i conti con i ben conosciuti effetti collaterali della serie. Vorrei, mi piacciono, ma poi, quindi non posso. Dottor Piuri. Allora, prima di tutto cominciamo a dire che i legumi sono fondamentali per la salute del cuore. Non si direbbe, ma in realtà un consumo, e gli studi scientifici dicono di 3-4 porzioni alla settimana, una porzione di legumi è circa mezzo piatto, una scatola piccola per intenderci, sì. In realtà aiuta a tenere il cuore in salute, e questo è un aspetto molto molto quindi importante. Quindi più legumi, meno infarti? Più legumi, meno infarti, okay. Meno colesterolo e meno diabete, quindi stiamo parlando davvero di alimenti veramente veramente importanti per la salute in generale. Però è vero che a volte vengono un po' evitati, uno perché sono un po' lunghi da preparare e due perché a volte, soprattutto se non sono cucinati perfettamente, tendono a dare qualche fastidio a livello intestinale. La prima cosa da dire, secondo me, proprio per cercare di convincere le persone a rimangiarli, in realtà di farli un pochettino alla volta. A volte le persone ricominciano subito mangiando una zuppa enorme di fagioli, ok? E poi hanno fastidio a livello intestinale. Certo. A volte è più utile, soprattutto se da un po' di giorni, da un po' di anni magari, che non si consumano abitualmente, introdurli poco poco alla volta. Facendo passetto dopo anche, passetto, dai. Okay. Passetto dopo passetto, cucchiaio dopo cucchiaio, ok? Come se fosse un po' uno svezzamento, rintrodurre una parte legata a degli alimenti che abbiamo utilizzato veramente poco nella nostra alimentazione. Andrea, ma hai qualche suggerimento per rendere più digeribili i legumi? Ci sono dei legumi più digeribili di altri che si prestano a cotture più. Secondo me adesso è proprio una bella stagione per piselli e fave, fantastica. Quindi le fave, ad esempio, semplicemente passatele al passo a verdure della nonna e togliete la pelle, in modo che rimanga questa polpa, perché è spesso nella pelle che è fastidioso in bocca, ma a volte anche poco digeribile e crea poi i famosi gonfiori. Quindi se abbiamo il frutto puro, sia delle fave che dei piselli, una sbollentata prima, l'acqua leggermente salata, non troppo, sì, e le passiamo al passaverdure della nonna, avere questa purea bella, pura, e perché no, magari aggiungiamo un po' di pecorino con le fave, che dà questo sapore fave pecorino, facciamo un bel crostone e il piatto è finito. Se voilà, tanto l'avocado toast, facciamo fave pecorino toast. Mi piace. Se invece è un problema di gusto, se c'è un'antipatia nei confronti dei legumi, dottor Piuri, può capitare, eh? Può capitare. Intanto volevo dire che effettivamente uno degli errori più grandi che fanno i miei pazienti quando si approcciano ai legumi è che in realtà fanno le vellutate col mini pinner e poi si lamentano perché gli si gonfia la pancia, mentre il passino della nonna è probabilmente lo strumento più utile per ritornare a utilizzare i legumi. Quindi andiamo di passino. Sì, di passino, che spesso c'è in tutte le case, anche se un po' in fondo nelle antine della cucina, ma c'è in quasi tutte le case, ne sono convinto. Ritiratelo fuori dall'armadietto della cucina. Dottor Piuri, ma mettiamo che ci sia un problema di gusto, insomma questi legumi che sono così buoni, che ci fanno così bene, che posso renderli più digeribili passandoli, insomma non mi piacciono. Come posso in qualche modo recuperare tutto quello che i legumi apportano alla mia alimentazione e quindi non perdere? Allora, sempre insistendo un po' sui legumi, prima di toglierli completamente io proverei ad esempio con la pasta di legumi, ormai è molto facile trovarla anche nei supermercati e tende a essere molto gustosa, soprattutto con alcuni tipi di sughi e si abbina molto bene ai formaggi. Potrebbe essere anche provare a reinventare dei legumi con tradizioni un po' diverse, tipo la farinata. La farinata che è fatta con la farina di ceci può essere sicuramente molto molto utile, ma se proprio i legumi non ci piacciono, se proprio dobbiamo eliminarli, è possibile magari cercare comunque di andare ad utilizzare delle proteine vegetali. I legumi hanno comunque una buona componente di proteine vegetali, andando ad utilizzare ad esempio le bevande vegetali di soia. La soia è comunque un legume, probabilmente il legume con le proteine col più alto valore biologico, e quindi possono esserci effettivamente d'aiuto in quel senso. L'altro aspetto che dobbiamo cercare un po' di recuperare, perché se mangiamo senza legumi in realtà ci togliamo tutta una parte legata alla fibra. La fibra è preziosissima. La fibra è importante e probabilmente anche alla base del perché i legumi fanno così bene al cuore, così bene al colesterolo, così bene anche alla glicemia. Qual è il problema? Che per sopperire un po' alla carenza di fibra possiamo aggiungere delle verdure, ma anche lì dobbiamo fare un po' di attenzione, nel senso che se i legumi ci fanno gonfiare la pancia perché hanno una fibra un po' più dura, un po' più fibrosa, un po' più fermentante, sostituire i legumi con tutta una serie di verdure che ha lo stesso tipo di fibra, rischiamo di avere lo stesso tipo di effetto dalla padella alla brace. Sì, quindi cerchiamo di risolverci, e quindi dobbiamo cercare di utilizzare verdure che abbiano una fibra un po' più morbida, un po' più tenera, che venga fermentata di meno a livello intestinale, come ad esempio le carote, le zucchine, i fagiolini, i cornetti, i pomodori, la zucca, mentre ad esempio la parte legata alle cipolle, ai porri, agli asparagi, il cavolfiore, i broccoli, i carciofi, quelli se li usiamo per sostituire i legumi rischiamo di avere esattamente lo stesso tipo di effetti collaterali, e a quel punto ci mangiamo i legumi. Andrea, riesci a dirci come mangiare i legumi senza che sappiano di legumi? Guarda, secondo me l'effetto camouflage che cerchiamo lo possiamo trovare, l'effetto camouflage, poi inventare per mangiare legumi senza sentire troppo sapore. Dicevamo prima, ad esempio, fare questo fave e pecorino toast, il pecorino bello stagionato copre, va in copertura dei legumi, perché no, poi potremmo fare una bella frittata nel quale magari usiamo solo il bianco dell'uovo, mettiamo i nostri legumi, in questo caso appunto fave e piselli. Io adesso consiglio questo perché è proprio la stagione, perché stagione perfetta, certo, perfetta, quindi fave e piselli, il bianco dell'uovo, un po' di ricotta fresca, ben magari prima ben asciugata, fatta colare, e ho subito un piatto in cui i legumi si sentono meno e quindi li mangerò più volentieri. Poi magari sotto metto anche un po' di sugo di pomodoro semplice a così accompagnare la mia frittata. Ecco, cerchiamo di coprirlo con gusti che ci piacciono di più, che sono come posso dire, nelle corde di tutti e mettiamo il giusto dosaggio, come diceva il dottore, di legumi in modo da non averne troppi. È chiaro che se partiamo subito, è stato bellissimo prima, con una zuppa pura di legumi, sì, avremo... con una bella pasta e fagioli, che in realtà esatto. Filippo Aureggi, che regia la parte tecnica, se ne mangerebbe due bei piattoni, ma ha fatto un segno molto più grande di un piatto, una basolottata, non lo so come si possa dire, e quindi insomma Filippo devo dire che non gli piace tutto, quindi è l'invitato per eccellenza. Se lo volete invitare, Filippo Aureggi, scrivetemi e io vi metto in contatto con lui. Ma state qua, la mia splendida coppia, perché adesso noi dobbiamo fare una piccola pausina, ma vogliamo anche parlare di pesce, perché insomma sostituire il pesce è difficile, immagino, dottor Piuri, a proposito di Allegre. Sì, qua sì. Sui legumi ce la siamo cavata, anche con le sue resistenze. Il pesce, però, ci sono tante persone che dicono, sai cosa ti dico, non mi piace proprio, provato di acqua dolce, di mare, ho provato i crostacei, non mi va giù. Oppure ci sono tante persone che dicono, ma mi metto a cucinare il pesce, ma tu lo sai cosa vuol dire cucinare il pesce? A tra poco. Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione... Beppe, un po' di... meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo, no. Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22.30 e la domenica alle 14 su Radio 24. La bufala in tavola. Alla bufala in tavola oggi giochiamo alle allegre e convenienti sostituzioni insieme al dottor Gabriele Piuri, medico esperto in nutrizione, ed Andrea Ribaldone, il mio amico chef stellato, chef dell'osteria Arborina La Morra. Dottor Piuri, io so che lei è un po' resistente a questo gioco, ma l'abbiamo presa in mezzo. E allora il gioco è questo: ci sono degli alimenti che sono molto importanti per la nostra dieta. Abbiamo parlato dei legumi, tra poco parleremo del pesce, ma questi sono proprio due alimenti che spesso per diverse ragioni vengono in qualche modo ridotti oppure proprio allontanati dalla nostra tavola per ragioni di gusto, di tempo, di sapore oppure per degli effetti collaterali, li abbiamo chiamati così, come nel caso dei legumi. E sarà dura sostituire il pesce, anche perché il pesce, sappiamo, è un alimento molto prezioso per la nostra salute, molto ricco. Dottor Piuri, che cosa mi perdo se non mangio il pesce? Allora, cito un po' di ricerche scientifiche per convincere tutti quanti. Allora, aumentare il consumo di pesce fa bene all'umore, nel senso che ci rende più contenti e migliora anche la memoria. Già detto questo, è sicuramente importante. Contiene comunque la vitamina D e quindi è importante per la salute delle ossa. Contiene tutta una serie di grassi molto molto buoni che si chiamano acidi grassi poliinsaturi omega 3, che è un nome lungo per dire una cosa semplice, sì, che aiutano sia a proteggere il cervello sia a proteggere il cuore. E in tutto questo poi soprattutto il pesce pescato tende a essere molto ricco di un minerale che si chiama selenio, che da un lato aiuta molto il sistema immunitario, e in questo periodo un po' di aiuto al sistema immunitario, certo, serve, e dall'altro favorisce la funzione corretta della tiroide, quindi è molto utile anche da un punto di vista metabolico. Insomma, chi mangia pesce fa bingo, però però adesso poi proveremo a sostituirlo, sarà difficilissima. Andrea, qua abbiamo bisogno di te. Tante volte non cuciniamo il pesce perché non sappiamo cucinarlo, poi diciamo, poi rimane un po' di odore in cucina, poi non so quanto cuocerlo, viene duro, viene secco, cioè non lo so. Andrea, aiutaci tu. Io farei un pesce delicato, quindi ricciola, o meglio ancora, la trovate sui banchi in questo momento, la leccia, e questo pesce con questa carne bianca delicata, pasta al Mediterraneo, pescato costa anche poco, quindi va benissimo. Ma si chiama da tutte le parti lo stesso modo? Cioè hai mille nomi? Leccia, Leccia, allora il nome giusto è Leccia Amia, si chiama proprio così, però Leccia, se dite Leccia la trovate, ma Ricciola è la famiglia più o meno è quella, quindi anche Ricciola va benissimo, la Ricciola costa leggermente di più, sono tutte e due buonissime, l'importante è che siano fresche, come sempre, il pesce non deve avere odore, è il fresco che è importante, e poi facciamo questa salsa cruda, la Ricciola, la scaloppiamo fettine fini, ce la facciamo fare anche nella nostra pescheria, e poi facciamo questa salsa che è un cucchiaio di salsa di soia, scrivete, sì, un cucchiaio, se l'hai visto, lo stavo scrivendo, un cucchiaio di salsa, di, salsa soia. Di soia, un cucchiaio di olio di semi di lino, quindi un olio buonissimo, anche questo fa molto bene, da tenere al fresco, un cucchiaino invece piccolo di miele, un cucchiaino di miele, e poi aggiungiamo un poco di olio extravergine in qua più. Ci vuole sempre, ok. Esatto, mescoliamo il tutto per bene facendo sciogliere piano piano il miele, aggiungiamo, se ci fa piacere, un pochettino di cipollotto fresco, che questa è la stagione, tritato fine fine, se ci fa piacere, e andiamo a condire e lasciamo almeno 10 minuti il pesce tagliato fine con questo condimento. È leggermente dolce e saporito, bello saporito, è una salsa in stile orientale, chiaramente. Vedrete che anche se non vi piace il pesce, vi piacerà. Abbiniamolo, io direi, con un po' di asparagi appena lessati e saltati in padella, che è proprio anche qua la stagione perfetta. Che camouflage fantastique, c'est bon. Allora, dottor Piuri, torno da lei, ma invece se proprio anche nonostante questa ricettina uno dice no, come può sostituirlo? Allora, gli acidi grassi poliinsaturi omega 3 si possono sostituire in parte con i semi oleosi, quindi mandorle, nocciole, pistacchi, pinoli, i semi di lino, sono sicuramente molto utili. Il problema è che la lunghezza delle catene degli acidi grassi nei semi oleosi è un po' più corta rispetto a quella che troviamo nel pesce, quindi non sostituisce al 100%, comunque in maniera un pochino minore, però se proprio il pesce non ci piace, probabilmente i semi oleosi ci vengono un po' in supporto, quindi un 30-40 grammi di semi oleosi al giorno possono esserci effettivamente d'aiuto. Le proteine riusciamo a risolverle facilmente, nel senso certo, che la parte legata invece ha sicuramente delle ottime proteine, ma la carne ce l'ha altrettanto, le uova ce l'hanno forse anche meglio del pesce, la parte legata ai formaggi sono sicuramente molto utili, quindi da quel punto di vista ci sono pochi problemi. E per la vitamina D in questo periodo in realtà abbiamo poco, come dire, è un vantaggio, c'è il sole, possiamo farla a livello della nostra pelle col sole. Fate conto che in questa stagione basta prendere il sole un quarto d'ora con le braccia, con le gambe scoperte per arrivare già al fabbisogno di vitamina D che ci serve. Quindi lasciamoci quindi, baciare dal sole. D, siamo un po' più mediterranei e quindi riusciamo comunque a sopperire in quel modo. In inverno è un po' più difficile. Ma tanto noi ci sentiamo, cammin facendo ne racconteremo altre. Intanto ringrazio il dottor Piuri che si è prestato, un po' tirato per i capelli, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, dottor Piuri. Grazie per questa allegre sostituzione. Grazie ai camouflage di Andrea. Grazie a voi. Ciao, super. Nico. Vi abbraccio e vi ringrazio. Speriamo di sentirci presto. Quando sembrerà finito, tutto resta il lievito. Ci si fonderanno civiltà e tutto il seguito. Lievito. Quando il mondo ci presenta il conto e tutto in bilico. La serenità riposa in un impasto sferico. Sapersi negare al momento giusto e farsi desiderare alla fine conviene, perché prima o poi qualcuno ti dedica o una serenata, non vanno più di moda, o una canzone, come è successo proprio al lievito. Nessuno più lo trovava e Alessio Ventura, che è in linea con noi, gli ha dedicato una canzone. Ha scritto proprio una canzone. Alessio, ciao! Eccoci qua, ciao Nicoletta, che piacere. Che grazie piacere mio. Ospitalità. Senti Alessio, io quando ho sentito Lievito, che tra l'altro mi è entrata proprio nella testa, per cui io la canticchio ormai da quando l'ho sentita, ho detto magari l'ha scritta anche un po' per venire alla bufala in tavola, che dici? Mi sono montata la testa. No, non ti sei montata la testa, perché il caso vuole che io sono un assiduo ascoltatore di tutta Radio 24, francamente, però insomma non posso negare che spesso e volentieri capito anche sui tuoi programmi, quindi vedi, no, vedi, però, che carino, però, che... Se... no, no, è la verità, è la verità. Senti, Alessio, io non ho invitato un critico musicale, tu non hai bisogno, tra l'altro questo brano festeggia un po' i tuoi 25 anni di carriera. Ho cominciato la carriera nel 94 con il gruppo dei Dam, con il primo Sanremo, che abbiamo vinto, Sanremo Giovani c'era allora l'edizione. Poi un'altra edizione nel 95, un'altra nel 96, sono tornato nel 2004 con un altro gruppo di B-Boulevard, abbiamo vinto il premio della critica e poi tante cose in mezzo. Insomma, dovrei avere le chiavi della città di Sanremo, ma ancora non ce le ho. Arriveranno. C'è tempo. Senti, poi ci racconterai che cosa ti ha ispirato e perché un brano proprio sul lievito, ma io non ho, come ti dicevo, invitato un critico musicale perché tu li frequenti spesso, ma considerato che la tua canzone si intitola Lievito, ho invitato un tecnologo alimentare che alla bufala in tavola ha un nome, è Giorgio Donegani, che è in linea con noi. Buongiorno, dottor Donegani. Buongiorno a voi e complimenti al cantante. Infatti, chiacchierando col dottor Donegani, ho scoperto che ha apprezzato molto la tua canzone, Alessio, e ha trovato delle metafore molto interessanti. E quindi fa una sorta di analisi del testo in versione tecnologia alimentare, insomma. Sì, sì, più o meno. Più o meno. Allora, dottor Donegani, si giochi questa carta, che no, magari no, Alessio Ventura farà poi un'altra canzone con, non so, o Giorgio o tecnologo alimentare, chissà. Non sarebbe un onore, ma prendo tanto. Mi è piaciuta moltissimo la cosa, per esempio, che la serenità riposa in un impasto morbido, no? Perché rimanda in effetti a quello che abbiamo vissuto in questo periodo, che è proprio un bisogno di ritrovare quella cosa, quella serenità, quella pace, quella tranquillità che si ha nella tradizione, nella normalità, e il lievito da questo punto di vista è venuto fuori come un protagonista inatteso e spero che non debba mai poi fare davvero i conti, sempre riferirmi al testo della canzone con la fama di rimedio vecchio, perché di fatto il lievito merita, non dico l'immortalità, ma perlomeno di vivere quanto vivrà l'uomo. Quando sarà ripartito tutto, penso al lievito che sonnecchia lì su uno scaffale senza seguito. Ecco, l'abbiamo ascoltato, Alessio. Lievito. Quando sarà ripartito tutto, penseremo al lievito e canteremo al lievito. Me lo auguro, me lo auguro. Di non dimenticare questa riconnessione che c'è stata. D'onore del vero, io devo dire che questo testo non l'ho scritto io. A me è venuta in mente l'idea, l'ha scritto Daniele Giannotti, con il quale collaboro ormai, un amico, un autore con il quale collaboro da tempo. Però appunto l'idea era proprio questa, cioè il fatto di sottolineare che siamo un po' tutti ritornati forse alle vecchie tradizioni, ci siamo riconnessi con qualcosa di un po' più profondo, no? Che specie, molto spesso questa società con i suoi ritmi ci allontana un po' da quelle cose. Invece, pur nella tragedia, insomma, del momento, c'è stata questa possibilità, questa opportunità che mi sembrava interessante sottolineare, ecco. Infatti a me è piaciuto proprio subito ascoltandolo il tuo brano, perché è ricaricante, ti aiuta a pensare che ripartiremo e sarà bello e faremo delle cose bellissime, un po' come il lievito. Esatto. Alessio, io ti aspetto, intanto continuiamo a seguirti, un abbraccio e grazie. Grazie a te. Un saluto a tutti. Dottor Donegani, lievito o lieviti? Beh sì, sarebbe più corretto dire lieviti, perché di lieviti ce ne sono diversi, almeno tre fondamentalmente. Quello che il lievito, diciamo, è diventato per antonomasia è il lievito di birra, che è il più diffuso. Però c'è il lievito di pasta madre, che sta avendo un grandissimo successo e peraltro meritato anche in casa, perché sono in tantissimi a cimentarsi nella sua preparazione. E poi ci sono i lieviti cosiddetti chimici, le polveri lievitanti, che sono i lieviti in bustina che usiamo per fare i dolci. Ecco, per fare il ciambellone, per dire. Sì, tanto sì. Per dire, per dare una ricettina anch'io. Ok, dottor Donegani, ma prima del Covid sembrava che praticamente tutti volessero eliminare il lievito. Sì. Poi abbiamo fatto pace. Sì, sì, anzi direi proprio... Tanto che troppa pace, per cui non si trovava più, perché tutti abbiamo, sì, eravamo lì, e ciambelle, pane, pasta e pizza, e chi più ne ha più ne mette. Abbiamo messo abbondantemente le mani in pasta, tanto che ci sono anche dei dati che dicono che tutto questo ci ha un po' arrotondato, ma ne parleremo poi in un'altra puntata. Intanto adesso siamo qua, belli tranquilli, con il dottor Donegani, abbiamo sentito il lievito, adesso andremo a trovare anche un altro amico che di lievito se ne intende, e c'è sempre Filippo Aureggi che ha fame, bisogna andare, e Laura Vanossi è in assistenza in redazione, ma io mi fermo ma ritorno. Dottor Donegani, resta con me? Sì, sì, sì, sicuramente. Ok, qua mi piace. Vi siete persi nella giungla dei libri e non sapete cosa scegliere? Niente paura, Radio 24 vi viene in soccorso con Il cacciatore di libri. Due scrittori e due romanzi per ogni puntata. Una chiacchierata informale per scoprire qualcosa in più sui personaggi e i loro autori. Sono Alessandra Tedesco, vi aspetto ogni sabato per parlare di libri. Siamo in onda ogni sabato alle 15.30, ma resta l'appuntamento per i mattinieri alle 6.30. Se avete nostalgia della versione serale, c'è sempre il podcast su radio24.it. La bufala in tavola. E siamo tornati insieme a Giorgio Donegani, tecnologo alimentare. Stiamo così commentando, riflettendo sul fatto che il lockdown ci ha fatto fare pace col lievito. Dottor Donegani. Eh sì, sicuramente è una delle poche cose buone che si possono andare a trovare in questo periodo. Perché davvero sembrava che a un certo punto tutti fossero intolleranti al lievito, qualsiasi test più o meno fantasioso si era sicuri che il lievito andasse eliminato dalla dieta, e invece per fortuna no, e l'hanno dimostrato bene in più, diciamo, anche di questo periodo, perché di fatto l'intolleranza al lievito non è una novità, è di per sé una cosa che non esiste in quanto tale. Si può essere intolleranti a determinate sostanze come il lattosio del latte, si può avere delle reazioni simili allergiche come capita a chi mangia i pomodori perché contengono istamina, ma il lievito in sé, anche da ricerche approfondite, non ha alcuna sostanza che possa in effetti rimandare né a un'intolleranza né a un'allergia, tranne forse un aminoacido, però, che è presente nel vino, è presente nel formaggio, è presente in tantissimi altri alimenti e che le persone sensibili non possono, appunto, ecco, però, mangiare. Dottor Donegani, ci sono persone che dopo aver mangiato prodotti lievitati si sentono gonfi oppure digeriscono in modo lento, e ci sono persone che dopo aver ridotto i prodotti lievitati o i prodotti dove c'è il lievito si sentono meglio. Sì, cioè facciamo un ragionamento: il lievito in quali prodotti si usa? Evidentemente in quelli ricchi di carboidrati. Sì. Per cui eliminare il lievito vuol dire già ridurre molti dei carboidrati che siamo abituati a mangiare normalmente. Però il problema effettivamente del gonfiore, così, che si accusa dopo pranzo, dopo aver mangiato prodotti lievitati, penso al panettone, penso alle brioche. Lei pensa già al panettone, siamo a maggio, pensa ancora al panettone. Sono rimasto ai bei tempi prima di questo periodo, è un dolce ricordo, è proprio il panettone. Io sono golosissimo di panettoni, ma è il dolce lievitato per eccellenza. Però ecco, la cosa importante è, sì, chiedersi prima di tutto se quando questi carboidrati arrivano, al di là del fatto che siano lievitati o no, noi abbiamo una flora intestinale che è a posto, equilibrata per assimilarli e digerirli bene, oppure se abbiamo una disbiosi, cioè se non è la nostra flora intestinale che andrebbe sistemata per non accusare gonfiore. Poi l'altra cosa importante è chiediamoci se sono stati lievitati bene questi prodotti e se sono stati anche cotti bene, perché in effetti la scarsa cottura e la mancanza di lievitazione possono rendere molto più pesanti e facilitare le fermentazioni intestinali proprio dei prodotti che noi chiamiamo lievitati, ma che se sono lievitati bene questi effetti non li danno. È sicura? Sì. Sì, guarda, l'ultima cosa, sì. Nicoletta, poi teniamo presente che spesso proprio per favorire la lievitazione si usa aggiungere a delle farine anche delle altre sostanze come un enzima, per esempio le alfa-amilasi, che possono anche loro dare qualche problema, per cui magari sono alcune cose vicine al lievito che non trattate perfettamente possono dare il problema, ma non il lievito in sé. Allora, sicuramente usa il lievito giusto nel modo giusto, cuocendolo giusto, il nostro ospite di... Noi aggiungiamo un posto a tavola. Io, guarda, me lo metto capotavola perché è una persona, insomma, che vorrei conoscere da vicino, soprattutto per assaggiare quello che fa. Delle pizze straordinarie. Franco Pepe, in diretta. Ciao. Da Caiazzo. Ciao, buongiorno a tutti. Come Ciao, state? Franco. Non potevamo, parliamo di lievito, di lieviti. Sì. Quindi volevamo parlare di pizza e da te siamo arrivati. Come no? Allora, diciamo che è una materia che soprattutto è stata di grande interesse in questo lockdown, che è tutta la ricerca del lievito, no? Sì. E questa è una cosa importante. Che si è focalizzata sempre su come far lievitare un impasto, dove trovare il lievito, eccetera. Siamo diventati un po' tutti pizzaioli. I risultati sono stati un po' così e così. Senti, tra l'altro, Franco, e voglio raccontarlo anche al dottor Donegani, agli amici che sono, perché noi qua alla tavola della Bufala in Tavola ci raccontiamo. Il tuo forno è stato sempre aperto, anche durante il lockdown. Ed è stato un forno che è diventato un po' un simbolo. Ce lo racconti, che ci piace anche raccontare queste storie, che sono storie di cuore e di famiglia. Guarda, io appartengo un po' io rappresento la terza generazione di panificatori. Mia nonna iniziava col pane negli anni 30, poi con papà hanno fatto pizza dopo il pane a fine anni 50, papà si è staccato da nonna negli anni 60, ha messo una pizzeria. Io sono nato un po' in quella pizzeria, ho fatto il mio percorso con papà. La cosa importante è che durante la seconda guerra mondiale non ha spinto il forno, perché lui continuava a panificare da quel pezzetto di pane, 150 grammi pro capita per persona, si pizzava dalla tessera. E io mi sono sentito in dovere di non spegnere il mio forno in questa situazione e ho panificato per donare un po' con le associazioni di volontariato, per ricrociare, per le associazioni come di Ecclesiastica, di Suore, eccetera, oppure per centri per anziani. E per me tenere accesa quella fiamma era una fiamma della speranza, della ripartenza, che speriamo a breve di ripartire quanto prima, quindi fra una decina di giorni. E per me alzarmi la mattina, che abito in pizzeria, e accendere il forno era un segnale importante. È bellissimo. È bellissimo, è una storia proprio bella. Con il dottor Donegani, che è in linea, con noi, parlavamo appunto di questa riscoperta del lievito. E anche della, che, insomma, la pizza vuol dire Italia, e in un certo senso possiamo anche inserirla nella dieta mediterranea di cui abbiamo parlato in apertura. E anche perché tu sei ambasciatore della dieta mediterranea, quindi nel vostro forno avete spostato un po' l'asticella dal buono al sano, perché le tue pizze sono anche frutto molto dei prodotti del territorio e quindi della dieta mediterranea. Ci racconti? Voglio permettere una cosa. Allora, io parto da un presupposto, che il pizzaiolo è un artigiano. Sì. E ancora tuttora oggi io spingo sempre con l'istituzione che affinché un giorno ci deve essere una scuola che forma dal punto di vista tecnico, scientifico, il pizzaiolo, perché il pizzaiolo è una figura così che anche nei percorsi degli alberghi non c'è un percorso sulla pizza. Allora, facciamo scuola, dai, ci mettiamo dottor Donegani. Ma quella è una cosa importante, perché assolutamente. Oggi Allora io che cosa ho fatto? In mancanza di competenze tecnico-scientifiche ho creato un team dove c'è la nutrizionista, c'è l'agronomo per la sezione delle materie prime, la biologa nutrizionista, mi confronto con la mia creatività, perché voglio dare delle certezze tecnico-scientifiche a tutto quello che faccio, cose che prima non c'era, no? Allora si pensava che ci fosse la ricetta magica per fare la pizza, ma in realtà c'erano delle esplicazioni tecniche, scientifiche per tutto ciò che si faceva. Certo. E quindi ho cercato il team, soprattutto le figure professionali, per dare una certezza al cliente. E poi quando mi hanno fatto ambasciatore della dieta mediterranea, ho detto ma perché non la applichiamo nel modo giusto alla pizza? E allora ho messo in discussione un po' la tradizione, il peso del panetto, dei carboidrati, ho detto diamo ad equilibrare bene il proteine, i carboidrati e le lipidi. Quando insomma, tu hai fatto entrare a pieno titolo la pizza nella dieta mediterranea. E voglio dire, io ci ho lavorato tantissimo, infatti chi viene da me può scegliere dal grande menù di una classica pizzeria, ma c'è un opuscoletto con un piccolo menù dove noi abbiamo fatto un grande lavoro con la dottoressa biologa nutrizionista Michelina Petrazzoli, che siamo andati a equilibrare bene proteine, carboidrati e lipidi, e poi abbiamo fatto l'acquisizione delle fibre con un extra piatto. Infatti io ho creato un nuovo piatto per la pizza, dove c'è all'interno del piatto ci sono due spazi vuoti dove in uno spazio mettiamo le fibre, l'acquisizione delle fibre con un extra piatto con le erbe spontanee, e un altro punto dove mettiamo un dressing nostrano. Un dressing perché? Perché abbiamo creato il dressing per consumare il cornicione che a volte va buttato, quindi abbiamo toccato in materia di antispreco il cornicione, ma soprattutto sono carboidrati assoluti, e quindi col dressing, con i valori nutrizionali del dressing, andiamo a equilibrare l'assimilazione che potrebbe essere utile del cornicione. Perfetto, insomma, così buono e così equilibrato. Dottor Donegani, qua appena ci lasciano noi partiamo e andiamo a Caiazzo. Ma assolutamente. Lei ha pure la moto? Lei ha pure la moto e la Nicola? Molto molto volentieri. Carica molto la volentieri. Nico e andiamo. Via via tutti. Allora, grazie al dottor Donegani. Franco, io so che tu ci hai lasciato un video per gli amici della Bufala in Tavola e anche di Obiettivo Salute, lo postiamo sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, andate a vedere che cosa ci ha regalato quest'uomo. Intanto grazie a Franco Pepa, a Giorgio Donegani, a Filippo Aureggi, regia la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, vi aspetto come sempre domani, ma subito dopo il GR delle 6, quindi ci risvegliamo insieme. Buona giornata.